ebo, eba, ebe, ebi, ebo, ebu, ebo, eba, ebe, ebi, ebo, ebu. Kiss me. Bésame. Embrasse-moi. Kiss me. Báchame. Baba. Báchame, piccina, con la bobo. Bocca piccolina, dammi tan, tan, tanti baci in quantità. Ma questi baci a chi li devo dar? Oh, bibi. Bimba birichina, tu sei bebe. Bella e sbarazzina, quale tentazione sei per me? Ma questa tentazione che cos'è? Via ba e di ebe, cara sillaba con me. E biblia ubia, iblia ubia, uba. Sono tanto deliziose queste sillabe d'amore. Ba ba, baciami piccina con la bobo. Bocca piccolina, dammi tan tan tanti baci in quantità. Sono qui, sono pronta per incominciare. E ba ba, ba, ba, baciami bambino sulla bo, bo, bo, bo. Bocca mio piccino, dammi tan tan tanti baci in quantità. E baciami piccina, bella piccolina. Bi, bi, bi, bi. Bimbo birichino, tu sei be, be, be, be. Bello e sbarazzino, quale tentazione sei per me? Via ba e di ebe, cara sillaba con me. Sono tanto deliziose queste sillabe d'amore. Ba ba, baciami piccina con la bo, bo. Bocca piccolina, dammi tan tan tanti baci in quantità. La la la la la la la la la la. Ebe, ebe, ma che, ma che? Questo bacio che cos'è? Ebi, eba, Cirano vi dirà. È un apostrofo rosa messo nella frase t'amo. Ba, ba, baciami piccina con la bobo. Bocca piccolina, dammi tan, tan, tanti baci in quantità. E baciami piccina, baciami piccina, baciami piccina, baciami piccina, ba. Baciami, baciami, baciami. Mia piccina!